nostri graditi ospiti. Come sapete, la serata è dedicata ad un sguardo all'architettura catalana con un taglio molto specifico, inerente ovviamente alle tematiche che la settimana dell'energia ci sottopone. Quindi porgo il mio saluto istituzionale, mi sono prestato, devo dire, sono stato preso anche un po' in contropiede, nel senso che la mia presenza qui non era prevista questa sera, mi è stato chiesto di rendermi disponibile a delle traduzioni che spero debbano essere solo puntuali, quindi il mio ruolo questa sera sarà questo. I nostri ospiti sono Laura Bettini, giornalista di Radio 24, che svilupperà poi a seguito anche di questa serata un'ulteriore iniziativa che verrà, avrà una sua divulgazione specifica proprio su Radio 24, e i nostri ospiti, che sono tre architetti catalani, Enric Massip, Felipe Pic Aguilera dello studio Pic Aguilera Baglie e Joan Sabaté. Non sottraggo altro tempo a questa, all'inizio di questa serata, buona visione. Ovviamente ci presenteranno le loro interessantissime opere e vediamo se c'è lo spazio per anche un confronto, un dibattito poi a fine serata. Grazie, io non ho mai avuto prima un presidente come interprete traduttore, capito? La prima volta. Un livello altissimo, guardiamo a livello altissimo, come dicevamo poi il livello potrà ulteriormente innalzarsi con le vostre domande, visto che tra gli iscritti ci sono molti professionisti, avete a disposizione tre professionisti riconosciuti in ambito internazionale, quindi insomma è l'occasione giusta. Come diceva prima il presidente, io su Radio 24 conduco una rubrica che si intitola L'altro pianeta, oltre a occuparmi di giornali radio e quindi di tutto quello che c'è da fare, una rubrica che si intitola L'altro pianeta, e di solito introduco questa rubrica dicendo l'altro pianeta, quello che si occupa, quello della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente, quello che possiamo costruire perché non ce l'abbiamo ancora. Mai come questa sera questo incipit, diciamo, cade a fagiolo, perché lo possiamo costruire l'altro pianeta, e stiamo parlando per l'appunto di architettura, di costruzioni, e stiamo parlando di un'area europea che negli ultimi anni è balzata agli onori delle cronache, ma non solo dei professionisti, ma anche di quelli come me, insomma, che si occupano di sostenibilità e di ambiente per mestiere o per passione, perché ha cambiato il suo volto. L'ha cambiato in tante maniere, a volte così stando più nell'ambito architettonico, altre volte guardando l'architettura in senso più ampio, un'architettura sostenibile, l'architettura che guarda al risparmio energetico, che guarda a certi materiali, che guarda a tutta una serie di cose che tante volte noi ci dimentichiamo che esistono e che invece sono importanti, che possono cambiare il nostro mondo e farlo diventare per l'appunto l'altro pianeta. Quindi io direi di non sottrarre tempo ai nostri relatori, cominciare con le loro introduzioni, con le loro presentazioni, e magari se ne avete voglia alzate la mano anche durante la presentazione, in modo che io possa raccogliere le vostre indicazioni, le vostre richieste specifiche subito per poterle sottoporre, e poi ovviamente ci sarà tempo per una discussione più ampia. Però non dimenticate che anche mentre parlano, se mi fate un gesto, io cercherò di cogliere nel vostro sguardo, nel vostro gesto, la domanda, e quindi poi di dare subito il via a una piccola discussione o al necessario chiarimento, se c'è. Il primo dei nostri ospiti a cui chiedo di intervenire, e chiedo a lei di stare particolarmente attento perché qui si parla spagnolo mentre gli altri cercheranno di parlare direttamente in italiano, qui invece abbiamo una relazione proprio da diciamo non tradurre subito, forse possiamo chiedere al pubblico di ascoltare qualche minuto, vediamo se riusciamo a seguire tra le immagini e le parole dell'architetto Pic quello che ci presenterà. Se ci sono delle difficoltà, e ce ne renderemo conto anche noi perché io sono un parlante spagnolo molto scarso, inizieremo con la traduzione. Architetto, quindi lei è già tutto pronto, è già collegato? Perfetto. Io le vorrei appunto cedere subito il microfono, o preferisce quello che ha lì vicino lei? Ecco, sì. perché so che tra poco ci presenterà quello che può essere anche proprio un tema di introduzione a questa serata, parlando del suo lavoro e della particolare attenzione all'ambiente che lei ha deciso di riservare nel suo lavoro, quindi non di parlare solo di architettura ma anche di ambiente, quindi da lì partirà, vero? Prego. Sì. Grazie. Gracias a los organizadores y también al Orden de Arquitectos por haberme invitado a estar aquí y compartir esta velada con ustedes. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, bien. Lo siento, hablaré castellano, pero yo creo que con las imágenes y hablando despacio nos vamos a entender bien, ¿no? Ante todo, yo creo que hablaré esta noche sobre todo, entiendo yo, de arquitectura contemporánea, en el sentido de que la incorporación de la preocupación medioambiental dentro de nuestra arquitectura, en realidad no es un adjetivo, ¿no?, sino que es una necesidad, una aspiración que todos nosotros compartimos como ciudadanos, antes que como arquitectos, ¿no? Y en ese sentido, vorrei chiedere innanzitutto a voi se ritenete che è necessaria la traduzione. Il problema della traduzione consecutiva è ovviamente che si spezza il dialogo, si interrompono i tempi, si allungano le tempistiche, però se è necessaria ovviamente la facciamo volentieri. Quindi proprio in modo molto diretto, chi ritiene di avere necessità di traduzione? Mi spiace, hai vicino un traduttore che credo ti possa aiutare, quindi direi che possiamo anche ben rinunciare. E ringrazio i nostri ospiti perché parlano in castigliano e non in catalano, quindi ci aiutano anche un pochino per questa loro disponibilità. En el fondo, pienso, y si vemos un poco dentro de lo que nosotros hacemos cada día, tenemos una visión seguramente de la naturaleza como una fuerza que hay que neutralizar, ¿no? Digamos, como un elemento que debemos de algún modo parar, y la arquitectura es como una construcción que neutraliza esta naturaleza y produce de una forma artificial unas nuevas condiciones de clima interior. Y eso ha llevado a que en realidad la edificación, la construcción en nuestro entorno, en nuestra cultura, sea realmente un sector caótico. Y, por tanto, yo lo que quisiera decir, y siempre recalco en ello, que nuestra sociedad no será capaz de cumplir con los compromisos políticos en términos medioambientales, protocolos de Kioto, etcétera, etcétera, si no incide de una forma decidida en el ámbito de la construcción. Y en ese sentido hemos de tener en cuenta que todos nosotros como arquitectos, como personas vinculadas y con capacidad de decisión en ese sector, tenemos el tremendo suerte y el tremendo compromiso también de ser conscientes de que hemos de cambiar radicalmente el sector. No porque nos hayamos cansado de hacer las cosas del mismo modo, sino porque en realidad, como ciudadanos, tenemos unas aspiraciones que no pueden llevarse a cabo si no incidimos directamente en lo que es la arquitectura. Por tanto, tanto en términos de energía como en términos de material, como en términos de agua, como en términos de emisiones de CO2 a la atmósfera, la arquitectura es hoy en día uno de los grandes consumidores y de los grandes productores de problema ambiental de nuestro planeta. Y eso viene de una visión mental, ¿no? Digamos, en la que todos hemos sido formados en tanto que arquitectos, en tanto que técnicos, ¿no? Y es que la arquitectura se ocupa de formas que producen problemas climáticos que se resuelven con máquinas que no se ven. Arquitectura produce problemas, pero es bonita. Máquinas lo resuelven, pero no forman parte de la arquitectura. Y en realidad a mí me gustaría hablar, ¿no?, y observar sobre la propia tecnología de la naturaleza. La naturaleza tiene la capacidad, al cabo de tiempo y de años, de producir sistemas extraordinariamente sofisticados en términos tecnológicos y a la vez extraordinariamente sostenibles y simples en términos de aplicación de materia prima, en términos de reciclaje, sobre los cuales podemos aprender, ¿no? Veis esta fotografía, que es un termitero en la estepa australiana. En Australia, en el mismo día, tenemos saltos térmicos de 0 grados por la noche y más 48 grados durante el día. Y sin embargo, para que las larvas de las hormigas vivan en su interior, necesitan una temperatura constante de 16 grados a lo largo de varias semanas. Y eso se consigue simplemente con un material, la arcilla del suelo porosa, y gestionando la propia geotermia, la radiación solar, los flujos de aire, etc. Se podría decir que el termitero es la máquina perfecta y a la vez la arquitectura perfecta. Eso es, a mi entender, lo que nos gustaría, de una forma simulada, ¿no?, digamos, lo que deberíamos, lo que un referente claro para nosotros como arquitectos, ¿no? Ese es un edificio que acabamos ya hace algún tiempo en Toledo. Toledo es un clima relativamente extremo en el centro de España, y es un call center, un programa relativamente específico, y abordamos ese proyecto como si fuese, por un lado, como si fuese una infraestructura, ¿no?, una infraestructura capaz, eficiente, y tratando de que la arquitectura misma, la forma de la arquitectura misma, fuese en sí misma una máquina de producir el clima interior del edificio. Y solo cuando la máquina, la arquitectura máquina, ya no puede producir más, entonces se ponen a trabajar las máquinas convencionales. No entraré en detalle sobre las plantas, eso es una sección de la sala del call center. En la parte norte del edificio tenemos una zona de oficinas, donde que servirá como planta de refrigeración del aire a través del edificio. Esto es una sección transversal. Y esos son unos esquemas sobre el funcionamiento de la arquitectura máquina, ¿no? La propia arquitectura es capaz, en este caso en invierno, de reaccionar frente al sol, frente al viento, y producir una parte de del clima interior. Lo mismo en verano. Y estos son los programas de simulación dinámicos, en ese caso el programa TAS, que nos permiten, en fase de proyecto, verificar si las intuiciones que tenemos son adecuadas y tomar decisiones sobre la forma de la arquitectura. Porque en el fondo, estamos hablando de formas de arquitectura. No como objetivo, pero sí como vehículo y como expresión de una voluntad, ¿no?, una voluntad climática. Y, finalmente, ser capaces, o hacer el esfuerzo para ser capaces de traducir en números lo que intuitivamente, o lo que en las modelizaciones dinámicas tenemos. Traducir en números quiere decir, si puede ser, pues en números quiere decir kilos de CO2 a la atmósfera o kilovatios por metro cuadrado, y sobre todo en euros. En la medida que seamos capaces de traducir las cosas en euros, seremos capaces también de convencer o de llevar al lenguaje final, lo que estamos proponiendo. Evidentemente, los euros es una convención. Es un término mucho más paramétrico, el término de CO2, toneladas de CO2 o de kilovatios, ¿no? Pero, sin embargo, muy poca gente entiende de toneladas de CO2 y de kilovatios, y todo el mundo entiende el lenguaje de los euros. Por tanto, al lenguaje que entiende todo el mundo es donde tenemos que tratar de llevar esos postulados que empiezan como aspiraciones, ¿no? Como sueños. Y el edificio empieza a construirse, todos los componentes del edificio han sido producidos en fábrica, de una forma eficiente, y ensamblados en obra. Y quien ensambla, a futuro puede desensamblar y reciclar esos componentes, no simplemente destruir el edificio. El edificio ha sido montado, a partir de ahí, con otra lógica, se envuelve ese edificio y esa es unas fotografías del edificio acabado, ¿no? Cada fachada es distinta porque la orientación es distinta y las actividades interiores también lo son, ¿no? Pero el conjunto del edificio, esa atmósfera que envuelve el edificio, que envuelve esta infraestructura, permite que se produce un clima interior. En el interior del edificio, al máximo posible, hicimos un esfuerzo porque no hubiesen materiales de acabado. Un material que llega a obra por primera vez, ese es su propio acabado. Eso nos obliga a hacer las cosas bien la primera vez y, por otro lado, nos obliga también a evitar materiales que son sobredimensionados y que son superfluos y que suponen también un consumo de energía, aunque sea simplemente una energía embebida. Fotografía de la zona sur del edificio, que es un lugar de producción de calor. La zona norte, ¿no? Que el aire entrará a través de esta zona norte con cubiertas inundadas y el aire muy caliente y seco de Toledo evapora agua y puede bajar en el pico del verano, puede llegar a bajar hasta 9 grados. El segundo proyecto que me gustaría hablar aquí es un proyecto, nosotros le llamamos en el despacho un proyecto de revitalización, ¿no? No de restauración. Restauración habla sobre una construcción que tuvo un momento esplendoroso y que nosotros tratamos de recobrar las propiedades que tuvo ese edificio en un momento determinado. Pero en la mayoría de edificios, en la mayoría de casos de ese sustrato mineral que tenemos nosotros como edificios hechos en el pasado, nunca tuvieron las expectativas que hoy en día nosotros exigimos a una edificación. Por tanto, podemos considerarlo casi como un territorio, ¿no? Como si fuese el propio territorio natural mineral sobre el cual nosotros debemos, sin destruir, debemos añadir capas para ser capaces de dotar aquellas edificaciones de las expectativas contemporáneas que nosotros proyectamos sobre ellas. En ese sentido, esos son unos cuarteles en la ciudad de Lérida y la primera decisión que nosotros pudimos tomar, que es no tirar estos edificios al suelo, ¿no? Y transportarlos al vertedero, sino reciclar esos edificios. La primera decisión, la más ecológica de todas, la pudimos tomar porque hace 60 años, ¿no? Un arquitecto, yo no sé si era arquitecto con título o no, pero una persona técnica tuvo la ambición de generar unos edificios, unos cuarteles, con una ambición que iba más allá de la propia funcionalidad estricta que en aquel momento se le pedía. Son unos edificios que bordean unos patios, con unas luces bastante importantes, 7 metros, muy importantes para ese momento, y eso nos permitió reciclar ese edificio en un uso impensable en ese momento, no existía. Son unos edificios, es un parque agroalimentario, unos edificios para la investigación basada en la agricultura, que es muy propia de la ciudad de Lérida. Y lo que hicimos es enlazar esos tres edificios en uno solo, a través de colocar un invernadero, un invernadero industrial que enlazaba el conjunto de los edificios y creaba unos patios cubiertos que producían un clima artificial, en lo cual gran parte de la fachada del edificio intercambiaba, no con el exterior, sino con este exterior artificial, exterior más atemperado. Ese es nuestro invernadero montado en Holanda, que se desmontaba y lo reciclábamos hacia Lérida. En ese caso, algunos datos con algunos programas de simulación, Ecotec, con varios programas para comparar los resultados, donde nos permiten ver las distintas decisiones a nivel de anteproyecto, cuáles son su rentabilidad en términos medioambientales y energéticos y cuál es también su rentabilidad en términos de inversión y ahorro económico, para acertar en esos términos cuáles son las acciones más adecuadas, ¿no? Y eso sería un poco un esquema de ese conjunto en su reacción en invierno, ¿no? Como el invernadero cerrado produce un calentamiento de ese TRAS-2 y ese calentamiento es capaz de ser almacenado en las paredes masivas y irradiado durante la noche. Mientras que en verano el sistema del invernadero permite una refrigeración abriendo con puertas arriba y abajo, con toldos y con micro espolvoreando agua para bajar la temperatura del aire tan caliente del aire, hasta 40 grados y muy seco. Y luego el ciclo del agua, toda la cubierta es una cubierta aljibe de agua y plantas que permite captar y almacenar en la cubierta del edificio el conjunto, una gran parte del agua que llueve encima. Esas son algunas fotografías del edificio acabado, los patios. En realidad no teníamos que restaurar esos edificios, ¿no? Nadie le gustaba hacer investigación en unos antiguos cuarteles, ¿no? Debíamos reciclar ese entorno mineral, ¿no? Ese volumen mineral, pero cortar una historia y empezar otra, ¿no? Y eso tratamos de hacerlo dando un nuevo ambiente a través del color, ¿no? Por tanto, lo que no estamos haciendo es restaurar, es algo distinto, ¿no? Es algo distinto. Y en la cubierta del edificio tenemos, se puede recorrer el conjunto del edificio como si fuese una nueva planta baja, ¿no? Como una nueva cota cero en la cubierta, reutilizando esos volúmenes de la cubierta como salas de reuniones conjuntas. Y voy a ser muy disciplinado porque yo creo que me voy a ceñir al tiempo. Y eso es, me gustaría explicar una parte de un proyecto. Y es, ese es un edificio, un gran edificio, es un hospital que acabamos hace un año. No quiero explicar el conjunto de ese edificio, me gustaría explicar simplemente un trozo. Eso fue un concurso de proyecto y obra. Es decir, quien ganó el concurso fue un proyecto junto con una constructora que decía que lo podía hacer a un precio muy, muy adecuado. O sea, el conjunto de dos cosas. Y aún y así, El proyecto, el edificio, el proyecto que nosotros presentamos es un proyecto que incorporaba de una forma bastante decidida en un programa hospitalario muchas medidas desde el punto de vista de producción de energía renovable y desde un punto de vista bioclimático. Y lo interesante es que nuestra estrategia es, tenemos esa rambla, esa calle que recorre el edificio de lado a lado, 350 metros, que es el vestíbulo del propio edificio. Tiene 5 plantas de altura y es esta sección. Y nuestra propuesta fue no climatizar ese espacio y otros espacios del hospital, pero voy a explicar esto, ¿no? Digamos, no climatizar, o sea, no poner ningún tipo de maquinaria para conseguir un clima artificial en el interior de ese espacio, sino que la propia arquitectura, la propia disposición de los elementos arquitectónicos, la forma misma de ese vestíbulo era la adecuada para garantizar en su interior, en cualquier situación de temperatura exterior, un gap entre 22 grados y 29 grados, que no es exactamente un gap de confort, pero sí que es suficiente para un vestíbulo de un edificio donde la gente pues aún se está dirigiendo de un sitio a otro, ya va con abrigo o no tal. Y eso fue en realidad porque el vestíbulo de ese edificio, esa calle por extrusión, es en realidad una chimenea. Y simplemente con la gestión de los flujos de aire y de la radiación solar somos capaces de controlar ese confort, ¿no? Y, por supuesto, nuestro cliente nos pidió que esa intuición que era tan bonita y que estaba tan dispuesto a creer porque le evitaba una inversión y un coste energético para toda la vida del edificio, que cómo le podíamos garantizar que esto era así, ¿no? Y tuvimos que firmar un contrato, que si un día miden y eso no es así, nos cortan a trocitos, ¿no? De forma que vale la pena cerciorarse antes de firmar ese tipo de contratos, ¿no? Y existen los sistemas de modernización con elementos finitos, de modernización dinámica, que nos permiten testear y nos permiten convencernos de que eso realmente va a funcionar de esa manera, y tomar las decisiones en momentos de proyectos para que eso realmente sea así. Y eso es algunas fotografías del edificio acabado, realmente que se está comportando bien, y tranquilamente, sin necesidad de poner el cuello. Y nada más, quisiera acabar con esta imagen, que yo creo que resume bastante en lo que he tratado de decir. Es una imagen del 1907, cuando los hermanos Wright vinieron a hacer los primeros vuelos de demostración a Europa. Y ese momento yo creo que tiene bastante que ver con el momento que estamos viviendo todos ahora. Los hermanos Wright, en ese cambio de siglo, la sociedad tenía la necesidad, la aspiración, tenía la preparación mental para volar, ¿no? Para ir de un lugar a otro del planeta, para cortar las distancias, había una visión transversal. Y habían muchos grupos que estaban tratando de dar respuesta a esa aspiración social. Los hermanos Wright no eran ni mucho menos los más dotados para ello, desde un punto de vista político, ni técnico, ni económico, pero los hermanos Wright se dedicaban profesionalmente a hacer bicicletas y entendieron desde el primer momento que el avión, lo que debían crear, no era una cuestión de fuerza, no era un gran motor que fuese capaz de lanzar al aire el peso que colgaba de allí, sino era una cuestión de equilibrio. Y debían, como una bicicleta, ¿no?, debían proyectar un equilibrador de las fuerzas que convergían en aquellos términos, ¿no? Las fuerzas del viento, las fuerzas del sol, la gravedad. Y yo pienso que hoy en día, en lo que estamos hablando en el discurso medioambiental, en la arquitectura medioambiental, es exactamente eso. No son la fuerza de los 10 principios, o de los 10 mandamientos, o de la gran máquina que ya no consumirá nada, Yo creo que lo que estamos tratando de hacer, la arquitectura que estamos tratando de hacer, es un equilibrador. Por tanto, el análisis pormenorizado, honesto, científico, de cada caso, para ser capaces, en cada caso, de generar la arquitectura propia que equilibre aquellas circunstancias. Nada más por ahora. Grazie. Prima di passare la parola agli altri ospiti, se c'è qualche passaggio che non è chiaro per il pubblico, magari è il momento di dircelo, così possiamo immediatamente aiutare, magari. Che dice, Presidente? Tutto chiaro? Ci sono già molti elementi che ci ha fornito l'architetto Pic. Sicuramente molto interessante il passaggio su quello che la natura già ci può insegnare. Ha sottolineato il Presidente un passaggio sulla rivitalizzazione. Io copio, sto qua di fianco all'esperto, che devo fare? La rivitalizzazione, che è un altro punto che in Italia forse dovremmo affrontare molto e più spesso di quanto non facciamo, la forma dell'architettura e poi ovviamente la chiusura sul cerchiamo di volare e dobbiamo trovare questo equilibrio. Molti elementi che di sicuro tra poco ridiscuteremo insieme. Io intanto però le chiedo, architetto, qualcosa l'ha affascinata in questo primo passaggio del suo collega? Sì, perché anche lei comunque di forma ovviamente si intende. Il nostro prossimo ospite è Eric Massip, cedo a lei il microfono, ha anche lei una presentazione da trasmettere, vero? Però mi dica che cosa l'ha affascinata in questa relazione del suo collega? Sì, no, il lavoro di Felipe Tresa lo conosco molto bene, da tanti anni fa, sono amici di tanti anni. E quello che mi sembra interessante è l'impegno che hanno in seguire una strada, diciamo così. E in questo senso penso sarà parecchio quello che Joan mostrerà dopo. In questo senso io sono un po'... diciamo in una posizione diversa, perché noi facciamo la nostra architettura, la pensiamo in un modo sostenibile, la pensiamo in un modo in questa strada per lavorare per un risparmio energetico, eccetera, ma siamo più pragmatici che ideologi. Per dirlo così, assaggiando a questo punto diversi modi, e non abbiamo trovato ancora quello che noi vogliamo fare come una meta vitale ancora. Io penso che, non so come è andato le altre giornate qua, ma credo che la questione più importante della sostenibilità è che in un futuro molto prossimo non si parli più di sostenibilità. L'idea è che non dobbiamo parlare di sostenibilità 10 anni dopo di oggi, perché sarà già una cosa normale, una cosa incardinata nel solito fare dell'architettura. Questo penso sia l'oggettivo di tutti noi. Ma quello che volevo presentare, non so se ho risposto, scusa. Ma diciamo che lei stesso ha sottolineato la differenza tra voi due, che volevo già fosse chiara anche a chi è qui in sala, no? Ciascuno ha un suo modo di lavorare, un suo punto di vista, e pur essendo su un filone vicino siete diversi. Prego. Okay. Mostrerò alcuni progetti. Come ho detto prima, tutti i progetti che facciamo al nostro studio sono pensati di modo, diciamo, per incorporare queste questioni di sostenibilità, eccetera. Ma lavoriamo in diversi modi, lavoriamo in modo più pragmatico, molte volte lavoriamo d'accordo alle condizioni iniziali del progetto, assaggiando di scambiare un po' la direzione o di trovare quel punto del progetto che possa essere lavorato un po' più in avanti che il bando stesso del concorso. Tutti i progetti che facciamo nel nostro studio sono vinti a concorsi. Ma la questione principale per me è in che modo l'architettura si fa. È una questione molto semplice, una questione che tutti condividiamo, penso, ma è per me la questione principale. Penso che tutte quelle situazioni di sostenibilità, eccetera, tutti quei meccanismi sostenibili, eccetera, sono a un certo punto, diciamo, devono essere a un certo punto irrilevanti per la definizione dell'architettura, diciamo, l'architettura deve rispondere a domande che vanno al di là di queste questioni, come ho detto prima. Penso che sono questioni che in 10 anni, se tutti siamo molto buoni, se tutta la situazione internazionale va in favore, eccetera, queste questioni devono essere già incorporate nella stessa maniera di fare l'architettura. Mostrerò progetti molto, in modo molto rapido, perché Filippo ha detto una cosa in uno dei tuoi progetti, che in questo caso viene bene anche pensato così. Questo è un progetto che abbiamo fatto per una nuova carceri sud di Barcellona. Questo è il passaggio di Tàrrega, che è un paesaggio di orizzonti aperti, eccetera, che non sono soliti alla Catalogna. Su questo paesaggio dobbiamo mettere un'enorme macchina edilizia di 300 x 300 metri e fare una costruzione, diciamo, pensata per il castigo, si dice, per la punizione, no? Invece noi abbiamo pensato una architettura che è, diciamo così, tipologicamente adattata per essere scambiata in 50 anni dopo, un po' come quella storia che tu hai spiegato prima, ma all'inverso, diciamo, noi facciamo un'architettura per essere usata in 50 anni come un campus universitario, come, non so, un resort o così. Questo penso che sia la prima identificazione del nostro lavoro. Noi lavoriamo sulla tipologia come origine del progetto, facciamo una rielaborazione tipologica di progetto. Da solito una carcere come questa sono 4 pareti e qualche edifici messi là e c'è tutto, no? Questa è la tipica prigione di tutto il mondo. Noi abbiamo pensato l'inverso, abbiamo pensato i vuoti, abbiamo pensato gli spazi aperti e il resto è l'edificio, un po' come un monastero cistercense, grazie. E questo è il primo meccanismo sostenibile, pensare che l'architettura possa essere usata di tanti modi dopo, no? Penso sia importante. E non è quantificabile, è difficile quantificare questo. E questo certamente non c'è nel LEED. Siamo a questo momento in una situazione un po' strana, interessante, ma strana, perché da un lato ci sono tantissime architetture che non sono sostenibili, che sono veramente non sostenibili, che si fanno nella Cina, in Arabia Saudita, in America, eccetera. In tutto il mondo si fanno tantissime, tantissime metri quadri non sostenibili. Dall'altro lato abbiamo tutte queste certificazioni americane, europee, eccetera, che fanno, diciamo, come una condensazione di qualcun valore per essere incorporato nelle leggi del mercato dell'architettura, no? Il Leeds, per esempio, no? Chiuso la passive house a un certo punto, sono valori pensati per valutare qualche cosa e alla fine per donare un marchio di sostenibilità. E questo marchio, penso in molti casi, deve essere anche messo in dubbio. Invece ci sono altre modalità di lavoro che sono, per esempio, modalità meno ideologiche, più pragmatiche, ma che sono anche più storicamente normali, un po' nel modo che l'architettura si è fatto, l'architettura senza architetti è stato fatta così, anche l'architettura con architetti è stata fatta così. E dopo riprendo questo argomento per mostrare un altro progetto. Beh, scusate la digressione. Questo è, in tutto caso, il primo diciamo elemento in questo progetto che io penso sia veramente sostenibile è questo della tipologia. Il secondo è pensare che nel frattempo dell'uso di questo edificio possiamo anche incorporare qualcun elemento che sia che aiuta nel risparmio energetico e anche fa l'edificio più paesaggisticamente sostenibile, più diciamo più incorporato, veramente incorporato nel paesaggio. Noi abbiamo pensato a fare la coperta generale dell'edificio come pensare a un edificio molto piatto, dopo pensare a una coperta ondulata, fatta industrialmente, ondulata per seguire il profilo di paesaggio e dopo di fare questa coperta anche vegetale. No? È una coperta industriale, una coperta deck leggera con una finitura vegetale, ma che ha questa capacità di essere termicamente ottima. No? Anche economicamente sostenibile, nel senso che è una coperta provata, industrializzata, eccetera. E questo mi interessa moltissimo, di lavorare con la industria. Dopo mostrerò qualche progetto che vanno in questa linea. Scusate che passo un po'. Questo è un progetto che abbiamo fatto a Germania, un progetto di un vario... non è veramente un eco quartiere, sì. Ma è come da solito la Germania, un quartiere pensato con una forte diciamo condizione sostenibile anche di capacità di trasformazione degli spazi degli edifici, eccetera. Ma quello che voleva più parlare oggi era una idea, diciamo, che penso sia più meridionale, una idea di l'uso di elementi incorporati nell'architettura per fare l'immagine dell'architettura, un elemento in questo caso concentrati nella generazione d'ombra. Questo è un progetto sicuro che conoscete, questo progetto di Coderc a Barcellona, questo anche a Barcellona di Antoni Bonet Castellana. Sono progetti primo dell'anno 50, il secondo dell'anno 60. E noi abbiamo mostrerò quattro progetti, in un modo molto rapido, veloce, dove abbiamo usato, diciamo, l'idea di... la protezione solare come immagine, ma anche come elemento di funzionalità sostenibile. No? Il primo è stato una scuola, che è l'ampliamento di una scuola esistente, fatta con un'orientazione est-ovest, con le facciate est e facciate ovest, e abbiamo pensato questa protezione che alla fine sono l'immagine vera, l'immagine finale del progetto, e che costituiscono questo elemento di comfort, perché sono un po' staccati dalle facciate e fanno una specie di terrazza che anche può usarsi come un po' come un spazio all'aperto della stessa aula, no? Abbiamo lavorato qualche anno dopo questa idea un po' più avanti in quest'altra scuola in Girona, dove tutta la struttura, diciamo, orizzontale sono strutture prefabbricate, non le strutture verticali che sono fatte in situ, e dove la facciata sud, che è questa, è la facciata più importante, è molto diversa dalla facciata nord, che è quella. Questa facciata nord è totalmente aperta, industrializzata, con elementi fabbricati in fabbrica. Anche la facciata sud è fatta così, ma la facciata sud incorpora questi elementi di generazione d'ombra che generano non solo le immagini, ma anche una possibilità di usare l'edificio in prossimità, che è diversa di quella che è abituale, no? Abbiamo portato questo ancora un po' più avanti nell'ultimo progetto che abbiamo finito lo scorso settembre, 2 mesi fa, Torelló, un'altra città in Catalogna, che è stata fatta totalmente industrializzata, tutto, la struttura, le facciate, in 2 modi diversi. La struttura verticale e la struttura orizzontale sono strutture in calcestruzzo, e le facciate sono facciate pesanti per la prima volta. Noi da solito abbiamo lavorato, quasi tutti i progetti nostri sono progetti fatti con facciate leggere, ventilate, eccetera, ma in questo progetto volevamo assaggiare a lavorare con una facciata pesante, prefabbricata pesante. Ma, e questo è il punto che mi interessa più, abbiamo fatto non solo l'adozione immediata di catalogo, di prefabbricatori, ma abbiamo lavorato moltissimo in fabbrica, eccetera, con la impresa che fa la struttura e le facciate, per personalizzare questo prefabbricato. Io penso che l'industrializzazione, che è questo di quello stiamo parlando in questo punto, è un elemento indispensabile per fare l'architettura, non solo per questione sostenibile, come ha detto Philippe, ma anche per questione, diciamo, di qualità di finitura. Ancora non siamo in quel punto che la qualità di prefabbricati catalani è come le prefabbricati svizzeri o le prefabbricati finlandesi. Non siamo ancora in quello punto, ma l'industria sta sviluppando con una velocità importante, una certa capacità di fare meglio quello che sanno fare. E noi abbiamo lavorato specificamente in questo senso. Abbiamo fatto non solo un disegno specifico per queste facciate pesanti, ma anche abbiamo ridisegnato il catalogo di elementi verticali, orizzontali, prefabbricati, per avere una qualità dell'interno che sia accettabile. Anche tutti questi lavori che presento sono lavori low cost, anche l'ultimo che presenterò è low cost. Lavoriamo con una scarsità di mezzi, che è una condizione basica del lavoro. Penso che sia anche una condizione necessaria per noi, per avere una sfida in più, per andare un po' più avanti, no? E l'ultimo progetto che voglio mostrare è un progetto che non non ha questa condizione di diciamo di edificio pubblico, perché è un edificio corporativo a Barcellona, ma ha stato fatto anche come edificio, è un edificio corporativo low cost, è stato fatto anche con gli stessi, diciamo, orientamenti concettuali, anche progettuali, come le scuole che ho mostrato prima. È un edificio che è fatto su un luogo triangolare, che usa il luogo triangolare come segno per marcare l'origine della Diagonale, che è la strada più importante di Barcellona, e si mostra come una costruzione che ha diverse facce secondo la qualità della luce che incide sull'edificio, no? Questa torre per Telefonica ha la qualità di usare il programma, che è un programma generico di programma corporativo, ma abbiamo riordinato questo programma nel senso di generare un'esperienza interna dell'edificio che è un'esperienza molto più ricca, e penso anche questo deve essere contabilizzato nel bilancio finale di un'architettura, no? Un'esperienza più ricca che fa anche più agradabile per lavorare là. Anche per la stessa naturalezza del triangolo, la dimensione, il lavoro della facciata, eccetera, questi vuoti hanno una capacità di rendere l'edificio trasparente che è molto notevole. Questo era un tema che mi interessava specialmente lavorare in questo edificio. Ma quello che fa l'edificio più, diciamo, interessante dal punto di vista della continuità concettuale che ho parlato prima è che è un edificio anche lavorato con una industrializzazione quasi totale, ma è una industrializzazione personalizzata, per così dire. È una industrializzazione che è stata fatta con una rielaborazione di mezzi tipici industriali, no? Per generare anche la capacità di mozione, che penso sia anche un'altra condizione indispensabile dell'architettura. Questa è una visione dell'entrata, che è anche un spazio pubblico, è aperto a tutti quei cittadini che vogliono entrare. Ma quello che parlerò è un po' lo stesso meccanismo, diciamo, di generazione di un rapporto più filtrato con l'esteriore che abbiamo visto nelle scuole, anche una certa generazione d'ombra, lo abbiamo fatto qua, ma di un modo diverso. Abbiamo lavorato con un vetro di una capacità termica ottima, ma abbiamo anche messo una serigrafia su questo vetro che rende la capacità termica ancora meglio, no? E questa serigrafia sono delle righe che seguono un po' la verticalità, diciamo, dell'acqua che viene dal mare, che è molto vicino all'edificio, e fanno queste linee sulla facciata. Queste linee generano sulla pianta delle ombre che fanno anche, non solo è una questione, diciamo, di controllo solare, eccetera, ma sono anche le generazioni di momenti, diciamo, emozionanti dell'architettura. E questo è quello che penso sia importante anche a parlarne in questi temi quando parliamo dell'energia. Grazie. Grazie a lei. Può passarlo già direttamente. Le lascio il tempo di spostare tutti i bicchieri. Credo che sul tappeto adesso ci siano diversi temi che l'architetto, la sua relazione Joan Sabaté, i suoi colleghi hanno già messo sul tappeto, ovviamente non per introdurla ma per fare la loro presentazione, alcuni temi che di sicuro sono di suo interesse. Sono quelli... è caduto il cavetto. Che sono certamente quelli dei materiali, certamente quelli dei... Lei prego, riattacchi, faccia tranquillamente. Non so se ha bisogno di aiuto, forse te lo possono fornire. Quello dei materiali, quello dei numeri che poi diventano euro. So che nella sua presentazione poi lei sarà precisissimo con l'enumerazione. E poi anche quello ovviamente climatico, lei ci parlerà di un'area che è quella mediterranea e quindi delle attenzioni che ha avuto in questi due progetti di cui ci parlerà per quest'area dovuta al clima ovviamente mediterraneo. Quindi vogliamo, non so, qui deve riavviarsi tutta la procedura oppure impossibile contare le sei. Non era una bella scritta quella di tutte le modifiche perse, ma sono andate perse. Eccole. È più semplice. Vogliamo intanto approfittarne, magari se dal pubblico ci sono domande, mentre cerchiamo di riavviare la presentazione, di scoprire che cosa è successo, su quello che abbiamo sentito fino adesso, oppure... Vogliamo rimandare tutta la fine? Nessuno vuole intervenire per il momento? Siete tutti, tutto chiaro, tutto preciso, tutto, nessun problema? Va bene. Senti, io ne approfitto allora, architetto Massip, perché prima lei aveva accennato, se ne parlava là fuori, al fatto, e ha detto qualcosa anche adesso, al fatto che la sostenibilità è un concetto che poi varia anche di luogo in luogo, di esigenze in esigenze, di materiali. Parlare di una cosa a New York, di un edificio a New York, non è la stessa cosa che parlare di un edificio da edificare in Africa, come quelle mostre che abbiamo visto fuori, oppure da realizzare in Italia o in Spagna. Che cos'è che rende diverso lavorare sulla sostenibilità a New York rispetto, mettiamo appunto, lasciamo perdere magari l'Africa, è un caso estremo, ma magari anche alla sua Barcellona? L'Africa è un caso estremo, ma ci sono molta gente che abita in Africa. No, quello che rende diversa, diciamo, l'operazione sulla sostenibilità o la stessa idea di sostenibilità è esattamente la socioeconomia. Non è forse... È più sostenibile, per esempio, ogni anno pintare le case in bianco con calce in India, come era nella penisola iberica 50 anni fa, che è New York. New York non è sostenibile fare quello, perché non c'è i mezzi, no? La stessa struttura socio-economica, la stessa struttura urbana è diversa, no? Questo, trovare la strada sostenibile in ogni cultura, ogni momento, penso sia necessario fare quando si fa un lavoro. Non credo in ricette universali su questo, perché no, forse Joanna... Sì. Non ci sono... Non, per esempio, un tema che sta adesso molto nel dibattito, non nel dibattito, ma è molto fashion, è la riutilizzazione di container. Ma questo ha un limite. In Francia si fanno già scuole prefabbricate con... Questo è assolutamente una... Dopo parliamo. Ah, sì. Veramente questo non è buono in nessuna parte del mondo. Nessuna parte. Ma in Francia si fanno già, diciamo, ci sono 3 o 4 imprese che fanno scuole prefabbricate con diciamo container riciclati, ma questo è un cammino, diciamo, cortissimo, non è veramente una strada a seguire, è una limitazione, infatti, e pensare che tutto quello lavoro, anche la creatività architettonica possa essere, diciamo, ridotta in un simple... Anche solamente dal punto di vista dell'energia, sì, l'energia sì. Precisa per fare queste ferro, no? La materia prima di questo container è molto più grande che l'energia che di pensare a questa scuola, perché questa cosa significa utilizzare un materiale estremamente resistente per un'utilizzazione che non ha bisogno di questa resistenza. Allora la logica, sì, questo container non è più usato perché è svegliato, la logica è riutilizzarlo, rimetterlo nel giro dell'acciaio, no? Perché sennò questo giro, questa quantità d'acciaio che è dal mondo girando, è necessario mettere in altre parti, questa parte è prendere più acciaio dalle montagne. Allora questa è necessario vedere qual è l'energia necessaria per fare questo nuovo acciaio. Acciaio. Scusi, scusi, ma il mio italiano è molto più... veramente non è molto buono. In tutto caso, potessero... costruiti apposta, non sono neppure riciclati. Allora, se veramente è una questione di immagine, di questa idea... Questo però è un'attenzione che dobbiamo avere anche noi che poi le usufruiamo di queste scuole o che compriamo certe case, insomma... Non cadiamo nella trappola facile del dire è sostenibile perché è calce, però se sono a New York la calce non è sostenibile, è una sciocchezza, ecco, magari sì, anche noi parliamo di tecnologia adeguata. Questa idea adeguata è un'idea più complessa, perché è adeguata economicamente, tecnologicamente, culturalmente, dal punto di vista della localizzazione, no? E anche noi abbiamo la questione climatica, questa è una questione, ma l'altra questione è se la tecnologia adeguata, non so se la parola esiste in italiano, è chiarissimo. Adeguata. Prego, alzi la voce perché sennò non la sentiamo da qua giù. Poi prima di tutto vi ringrazio per l'esposizione. Ero curioso di sapere, per quanto riguarda l'ultimo edificio che ci è stato illustrato, c'è qualcosa sul come viene climatizzato, perché è una costruzione molto interessante, però penso che nel clima di Barcellona un edificio così, diciamo, trasparente, penso che possa creare parecchi problemi di climatizzazione. Ecco, mi interessava sapere che tipo di, se c'è una climatizzazione di tipo tradizionale o se c'è qualche tipo di... Non è tradizionale. Diciamo, la necessità di aria condizionata. Comincio per spiegare in un modo che non mi piace, ma in questo caso è vero, che abbiamo proposto all'inizio di lavori con Telefonica una facciata un po' diversa, nel senso che potrebbe essere aperta, eccetera, potrebbe essere generare una relazione più individualizzata con l'esterno. Loro non hanno voluto per niente seguire questa strada, hanno qualche problemi, non so, lavorali, non so, e non hanno voluto per niente che noi facciamo una facciata più più flessibile. Ma a questo punto ho parlato prima che questa è una torre corporativa low cost, è vero, siamo all'intorno dei 1.500 euro metro quadro, ma abbiamo, diciamo, bilanciato il budget in tal modo che abbiamo fatto una facciata molto cara e uno interno molto basico. nel senso che non ho mostrato nessun interno della torre, ma non è molto diverso da quelli interni che ho mostrato delle scuole, non è molto diverso, è così. È caso struccio visto nel nucleo centrale, l'installazione è messo in un modo, diciamo, accettabile, ma molto basico. Ma abbiamo spento tutti i soldi nella facciata, o quasi, diciamo, la maggioranza di soldi nella facciata, perché volevamo avere questa relazione molto trasparente. Il sito è un sito eccezionale in Barcellona, al lato del mare, l'origine della diagonale, c'è tutta la città intorno, e volevamo avere questa possibilità di dare all'utente della torre la possibilità di avere tutte queste viste, vedute incredibile. Abbiamo preso la decisione di fare tutto in vetro. Non sembra sostenibile, lo so, abbiamo un problema, diciamo, di immagine, ma è molto più sostenibile che altri edifici che non sono in vetro. Per cominciare, diciamo, tutti i lavori di manutenzione dell'edificio sono molto più facili perché in vetro, e questo è anche una condizione importante quando si fa il bilancio di sostenibilità in 20 anni. Ma non solo per questo, perché il disegno stesso della facciata che abbiamo fatto con queste righe, con queste linee, aiuta a che la facciata non deve essere, diciamo, pulita e spesso, no? Solo 2 volte all'anno massimo bisogna pulirla, no? E questo è anche un risparmio energetico, un risparmio d'acqua, eccetera. Ma, e quella è la domanda che tu hai fatto, la stessa composizione del vetro, che è un vetro con un ecap, eccetera, fa che la entrata, diciamo, termica è molto, molto debole. C'è tutto un altro discorso, che è quello che Joan farà dopo, che lo so, perché abbiamo cominciato a lavorare insieme tanti anni fa, che è quello dell'energia usata per generare il vetro, eccetera. Ma questo è un altro discorso che a questo punto non, d'un modo molto pragmatico, non abbiamo fatto in questo progetto, in questo edificio. Allora io presenterò due lavori del mio studio, probabilmente le due lavori le più diversi. Uno è una piccola casa, un piccolo edilizio sperimentale. Noi non lavoriamo in una forma, giustamente, prima questo piccolo edificio e dopo un edificio più grande che è fatto allo stesso tempo di questa torre telefonica e a 500... Sì, esatto, lo stesso committente è a 500 metri. Allora, questi sono due lavori. Ma prima, io questa cosa, probabilmente qui no, non è necessaria farla, ma quello è il problema, no? Dove è il problema? Anche se questa cosa va conosciuta, io credo che è bene rivedere questi grafici, no? Il primo problema è che la terra ha una quantità di materia limitata e un equilibrio che si sviluppa, che si rende possibile con l'apportazione solare. E questo equilibrio è un equilibrio che per la prima volta l'umanità, di forma antropica, è capabile di modificare. Questo non è un problema per la vita, è un problema per la vita attuale, per noi. Allora questo veramente, questo è un po' che è il problema, no? Il problema in questo momento è veramente il cambio climatico. Voi conoscete queste grafiche. E questo livello di 500 ppm di intensità di CO2 CO2 e l'atmosfera. E Stern, Stern è un economicista che ha fatto un lavoro su questa idea come l'economia è vinculata a questa monte del livello di CO2. E queste sono le diverse possibilità di aumento della temperatura nel nostro pianeta. Ma poi questo incremento della temperatura del pianeta non è per tutte parti insieme, sino che in nostra zona, nel Mediterraneo, è specialmente importante. Questo è il problema. Dove c'è la soluzione? La risposta a questo problema per noi c'è questa idea di sustentabilità forte. Noi siamo una sustentabilità debole, come diciamo avanti, una sostenibilità delle parole, delle idee, meno della realtà. Per il nostro equipo è molto importante arrivare a questa realtà, misurarla e vedere che la nostra soluzione sia importante. Io sono d'accordo con Filippo, con Enrico, quando dice che a 10 anni non sia necessario parlare della sostenibilità. Io credo che veramente non è necessario parlare di architettura sostenibile, ma di architettura. E l'architettura, come tutto il lavoro umano, è necessario che prenda in coscienza di questo problema. Noi abbiamo un problema. Se non abbiamo un problema, non sarebbe necessario cercare una soluzione. Ma come noi l'abbiamo, allora che è la soluzione? Noi abbiamo fatto, 4 anni fa, un lavoro di evaluazione delle emissioni di CO2 all'atmosfera. In quel momento sono prodotte queste emissioni di tutta la costruzione, di tutto il ciclo di vita, di tutta la produzione e l'utilizzazione di un edilizio. E noi abbiamo fatto questa comparazione con differenti modelli edificatori, con differenti tecnologie. L'idea è non solo evaluare l'energia e pertanto le emissioni che sono fatte dal momento dell'utilizzazione dell'edificio, ma anche tutte le energie che necessarie per costruire questo edificio. Questo è questa cosa che noi chiamiamo energia incorporata, se la embodied energy è il nome. E la prima considerazione, noi abbiamo misurato questo non di una forma statistica, ma su un progetto concreto, ma è un progetto più molto rappresentativo degli appartamenti nella Catalogna. Allora, su questi appartamenti noi abbiamo misurato un 30% dell'energia totale è fatta della costruzione dell'edilizio. La costruzione, il primo momento che abbiamo la porta del nostro nuovo appartamento, noi abbiamo già una produzione equivalente alla consumazione di un 30% delle 50 anni che noi abbiamo preso come vita utile statistiche. E in altre cose, questo è la normale, ma se noi facciamo un'edificazione molto più efficiente dal punto di vista dell'utilizzazione dell'energia, questo livello base, questo baseline di consumazione della costruzione aumenta fino al 50% rapidamente. In una parte, in una casa di bassa consumazione, noi stiamo tutto il tempo sopra questo 50% di energia incorporata. Questa è una cifra molto diversa dall'energia che normalmente parlano i tedeschi, per esempio. È vero che noi ci stiamo andando in condizioni, perché il nostro clima la consumazione energetica è molto più bassa. La costruzione è esattamente la stessa, consuma la stessa energia che la costruzione in paese tedesco. Più una differenza importante è che le emissioni della consumazione di energia dovuta alla costruzione si producono in molti pochi anni. Tutto il miglioramento della produzione dell'energia che probabilmente succederanno nei prossimi anni non saranno più capabili di renderle nella prima consumazione, sino nella consumazione diaria. Per questa ragione probabilmente questa energia incorporata sarà probabilmente storicamente più alta ancora, perché le migliori, le installazioni, la produzione più ecologica non è possibile di venire indietro, no? Abbiamo evaluato la quantità di energia consumata per fare ogni tipo di sistema costruttivo. E questa questione ne abbiamo cominciato a riflettere di più. Allora, ogni sistema costruttivo ha una lurdità, un peso, ossia un'energia incorporata, un'energia in kilojoules, ha una emissione di CO2 associata, e ha ossia un prezzo, un'economia, unos euros importanti, no? Allora, questa diversa scala di valore è questa cosa che ci interessa di vedere in tutta la traiettoria. E noi abbiamo utilizzato questa metodologia per validare, per evaluare la consumazione, le emissioni in diversi momenti della storia. Questo è un esempio di questo appartamento tipico avanti della nuova normativa della costruzione in Spagna, e noi abbiamo una emissione equivalente di 58 kg di CO2 annuale per metro quadrato. La trasformazione, la normazione, la nuova regolazione dell'energia fa scendere la quantità di energia in orange, che sia la consumazione per la calefazione, un 20%, ma la quantità globale scendere solamente un 11%. La linea in gris, se la quantità di energia, la quantità di emissione dovuta alla costruzione e al mantenimento, come si chiama, manutenzione dell'edilizia. Questo è il nostro progetto. Noi abbiamo cominciato questo lavoro a partire da un progetto che noi abbiamo fatto per il governo catalano, di un appartamento della Tossa de Mar. Allora, nostra proposizione riduceva molto la consumazione di energia, un 80% della consumazione di energia termica di calefazione di questo appartamento. Noi abbiamo visto che veramente è molto più difficile riducere l'energia dovuta alla costruzione. Non so se voi capite bene. Se capite. Okay. Allora, qual è le passo, la nuova proposizione dopo questo? Noi pensiamo che due possibilità. Riducere più l'energia consumazione nella vita utile è divenuto difficile, ma noi possiamo fare riducere l'energia dovuta alla costruzione e anche producere energia. Qui non aveva ancora energia prodotta in situ. Questa è la prima possibilità: riducere l'energia necessaria per fabbricare, per costruire l'edificio. Allora, quella, per esempio, disapparescono la costruzione sottorrasante. Noi abbiamo visto che la metà di energia necessaria per costruire un edificio è le betone, no? Come si chiama? Le cemento armato. La struttura in cemento armato è molto cara. Questo non vuole dire che non è buona, no? È solamente molto cara. Il prossimo lavoro è tutto in cemento armato, ma le condizioni sono diverse. Oggi noi sappiamo il valore di ogni sistema costruttivo, no? Questa è la proposizione per il rinnovellamento, per riabilitazione, no? con l'isolamento all'esterno. E questa è ancora con la generazione di energia locale. Questo che è interessante è che la riduzione di CO2, che questa linea che discende, non ha esattamente una linea in direzione opposata di elemento del costo per metro quadro, no? La linea verde e il prezzo, no? Il costo in euros che voi avete in la destra. Allora, il primo movimento è importante, ma dopo possiamo trovare una linea non molto elevata, non molto inclinata di questo incremento, evidentemente a un incremento del prezzo, la costruzione più efficiente. E dopo questo primo progetto abbiamo fatto questo che è la Lima, no? Lima, questo acronimo che è Low Impact Mediterranean Architecture, è questa idea di fare, come noi lavoriamo soprattutto per la funzione pubblica, per le municipalità e per il governamento, le tempi sono molto largo, no? Non è possibile fare l'experimentazione con un tempo di 10 anni. Questo progetto iniziale di Tosaima non è ancora fatto. Questo progetto ha 5 anni, bueno, dopo 5 anni più noi avremo del ritorno di consumazione reale del nostro edilizio. Allora è molto difficile vedere se questa sia l'efficienza energetica è importante o no. Allora noi abbiamo fatto questa piccola struttura che veramente è un laboratorio. Un laboratorio è una piccola piazza. Questo non è una casa, questo è una piccola parte di un blocco d'appartamento di 12 appartamenti. Questo è l'interno. Noi abbiamo fatto questa costruzione in Costrumate, una feria della costruzione in Barcellona. Una costruzione standardizzata in legno. Perché era importante lavorare in legno? Dopo questa immagine voi potete pensare perché. Perché la quantità di energia necessaria per costruire in legno è molto più bassa che per costruire in una costruzione tradizionale. Queste sono immagini. Noi abbiamo fatto questo in 10 giorni. L'idea è una costruzione più o meno nordica, è una costruzione più o meno della Germania, dell'Austria, questo poi potete vederli, ma noi abbiamo incorporato qualche idee specifiche della Mediterranea. Questo è la massività, la inerzia termica, soprattutto entro la radiazione solare e noi. Allora la coperta è una coperta lurda, una coperta pesata con vegetazione, e anche la captazione dell'acqua e anche la ventilazione della facciata e anche per esempio l'autorizzazione di finestra scorrevole, cosa che per esempio per compiere la normativa da passive house non è possibile, perché la nostra infiltrazione sono più o meno due volumini, ora anche la infiltrazione per passive house è 0,7, ma con il nostro clima dopo vedrete la consumazione energetica, non è necessario fare o tanto stanca questa maisone, questa casa. Noi abbiamo lavorato su 4 temi, l'acqua, l'energia, la materia e questa idea di bioabitabilità e come la casa rispetto alle gente che abitano dentro. Questa è l'idea, non è una casa, il piccolo laboratorio è una parte di questo abitaggio collettivo che voi vedete a destra, ma anche per vedere delle scuole o di altre costruzioni. Questa è la sezione. Questo è importante, qui non è solamente le peso, ma anche la trasmittanza energetica, l'energia incorporata, le emissioni, la quantità equivalente di acido sulfurico o finalmente il prezzo euro metro quadrato. Diverso sistema, e come noi abbiamo trovato queste numero, queste cifre, con un sistema che l'architetto conosciamo perfettamente, che sarà il sistema di medizione, no? Le prezzo, come facciamo le prezzo? Mettiamo tutte le linee con la condizione di ogni materiale, di ogni cappa. Noi adesso le condizioni più normali, noi abbiamo fatto con questa tavola queste altre condizioni, la durabilità, quanto durano ogni capa, Le trasporti, da dove viene questo materiale? Noi possiamo il prezzo del trasporto, il prezzo in emissioni. E finalmente la condizione ambientale. Allora, CO2 o acido solfurico per unità. E finalmente, quella cosa importante, alla sinistra, no, dov'è? A destra la penultima linea, la emissione per ogni metro quadrato di questa facciata, per esempio. Questa è una coperta, questa coperta. In questo caso questa emissione è negativa. Perché è negativa? Perché il legno è un recipiente di CO2, e veramente c'è CO2, come noi, diciamo tutti CO2. No? Ma questo CO2, se non brulano nostra casa, o non la, questo CO2 è sortito dal ciclo naturale, allora è veramente un deposito di CO2. Noi abbiamo un piccolo deposito di carbono. Evidentemente le prezzi, tutto il tempo lavoriamo con le prezzi, perché le condizioni di questo esperimento erano che in un tempo di acquisizione di 20 anni questa casa, il prezzo della consumazione energetica e mantenimento, manutenzione, e le prezzi dell'argento per comprarla, no? della ipoteca, deve essere uguale o meno che una casa tradizionale. La consumazione dell'energia, allora noi facciamo, non posso raccontare in questo momento, ma prima una questione di riduzione molto importante della domanda energetica. La domanda energetica di questa casa in inverno è di 3 kWh metro quadrato e anni, allora passive house 15, ma qual è la regione? Evidentemente Barcellona non è non ha 20 gradi sotto zero, allora non è molto difficile avere una consumazione più bassa che paese. Ma per contro la consumazione la necessità di freddo è importante, voi vedete. Questo è un cambio importante. Ma prima fare uno sviluppo, una struttura con una consumazione molto bassa. Dopo, lavorare con sistema energetico molto performanti. Performanti? Sì, ma meno, scusi. Allora, in questo caso noi non lavoriamo esclusivamente con l'architettura. Allora, il sistema di produzione dell'energia, noi abbiamo detto questo è un district heating, non è il nostro problema. Perché? Perché noi abbiamo esattamente le COP di ogni sistema di produzione di energia. Allora noi lavoriamo con l'energia che è necessaria introdurre al nostro sistema. Il nostro sistema è un sistema di architettura. Questa è un po' le condizioni di calcolo. Questa è la domanda di calefazione e di refrigerazione. E queste sono le cifre che gli vi dicevo. No? La necessità di freddo, di metri di freddo, arriva a 14 kWh metro quadrato. Questo per avere una temperatura di 26 gradi, che non monta più di 26 gradi all'interno. Non è molto importante, pensate che la consumazione in Catalogna è 150, allora 14 è perfetto, è molto bene, non è molto. Noi abbiamo necessità di 140 di calefazione e 60 o 50 di refrigerazione. Io ho lavorato anche con l'acqua, mi passo. E questo è interessante, noi abbiamo trasportato questo edilizio, questo momento è qui nell'università, e noi abbiamo introdotto questo punti di controllo. In questo momento noi abbiamo 130 punti di controllo, è una barbarità. Noi possiamo vedere esattamente che cosa passa in ogni... quella è l'idea? L'idea è sapere esattamente, poter prevedere, no? Qual è la realtà di questo edificio avanti di farlo, no? E per sapere questo è necessario farlo una volta e misurarlo molto bene. E come questo poi cominciamo a avere qualche idea un po' più chiara. Aspetto. Questo è il sistema di controllo. Questo è stato 2 anni per mettere il sistema di controllo in funzionamento. In questo momento questo marcia. La seconda, io vado un po' più rapida ancora, scusami. E questo, se la prima era un lavoro di sperimentazione, un lavoro personale del nostro studio, non è una domanda di nessuno, è un'idea nostra, noi abbiamo fatto questo lavoro. Questo secondo progetto è un progetto costruito in realtà per un'utilizzazione un po' speciale, una banca di sangue e di tessuto e di cellule madre. È la Catalogna. Allora, questo è un edificio assolutamente diverso, perché noi abbiamo necessità di una grande resistenza a movimento sismico, fuoco, interruzione del somministramento elettrico, perché qui è tutta la sangue della Catalogna, le ospitalizzano ogni 2 giorni di capacità, in ogni ospitale 2 giorni di capacità per avere la sangue. Allora qui è la produzione per 9 milioni di persone. Questo è in Barcellona. E qui è un po' la nostra approssimazione è un'approssimazione sostenibile, ma non ogni sostenibile. È un'approssimazione architettonica, come quello che diceva Enric. E quali sono le idee forti? La prima è questa idea di ordine. L'ordine è la garanzia della libertà. Oui. Questo è un problema. De primo, vedere una parte dell'edificazione non è modificabile, una parte dell'edificazione deve avere una vita molto lunga, e un'altra parte è precisamente molto rapida a sostituire. Questo programma è un programma di laboratorio, e un laboratorio è per definizione una cosa molto rapida a cambiare le forme. L'idea è un muro portante con inerzia termica, tutto il lavoro è tutto il tempo per fare cose diverse. Le muro portanti danno inerzia termica all'esterno, questo è buono per il funzionamento termico dell'edificio, ma allo stesso tempo non abbiamo dei pilastri all'interno dell'edificio, abbiamo solamente quattro piccoli nuclei con tutte le installazioni e tutti gli accessi verticali all'interno. Questa è la distribuzione, le dimensioni sono 28 metri per 68. E questa è un'altra distribuzione con una pianta più amministrativa. Una parte importante del programma è sotto la piazza. Questa è anche una portazione, non è nostra, è una portazione della municipalità, ma anche è una portazione alla sostenibilità. E questo edificio non è un edificio in centro della città, 600 persone lavorano qui, molte gente che lavorano negli ospedali. Allora è importante questo non inviarlo in un poligono industriale a mezza ora di Barcellona, o in centro di Barcellona, anche se per fare quello è necessario lavorare in condizioni un po' speciali, come sotto una piazza. Questa è la costruzione, una struttura in cemento armato, bianca, con una costruzione in situ, una costruzione non prefabbricata, per le difficoltà strutturali, e un muro portante, tutto il muro è un muro portante. E questa è un'immagine che, queste dimensioni sono molto importanti, le dimensioni sono 12 metri per 20 metri entre qui e qui, 20 metri entre qui e qui, 12. Dopo, questa parte non è movibile, questa parte è la base, questa parte serve 100 anni, non è possibile modificare questo, ma questo è possibile cambiarlo, non so, ogni 20 anni, ogni 30 anni. Allora, la costruzione è molto diversa, ogni costruzione è molto solida, molto cara dal livello energetico al livello ambientale, il cemento armato è una costruzione molto cara, ma le altre cose, le finalizzazioni sono basicamente in legno. Il legno non è molto impattante energeticamente né ambientalmente. Per esempio qui, dopo lo vedrei, le fenestrazioni, le finestre sono in legno. Qui evidentemente non è possibile aprire le finestre per ragione direttamente del programma. La materia è anche una cosa importante. Come Felipe diceva avanti, questo edificio non ha finalizzazione. Tutta la materia è la materia. Il cemento armato, voi vedete, il cemento armato non ha una finalizzazione, una qualità molto importante di finalizzazione, ma è dovuta alla faccenda di costruirlo. Noi abbiamo deciso, dopo io parlo un po' dell'energia. Questa l'idea della materia è un po' la idea della sensualità, della poetica, no? Se l'ordine dona la libertà, la materia dona questa approssimazione più tattile. Le nuclei, queste quattro casse dove passano tutte le installazioni, sono tutto il tempo in legno. E questa è un po' la finestra. Queste quattro casse che servono anche per mettere le sistemi verticali, prefabbricati questo. L'energia, come abbiamo lavorato questo? Da prima noi abbiamo fatto una comparazione tra un muro cortina normale con un buono muro cortina con il nostro edilizio. Abbiamo fatto multipli calcoli, ma questo che è interessante è che il nostro clima ha una relazione del 40% di proporzione di vetro e una parte importante opaca. Questo è buono per l'edilizio. E noi abbiamo comprovato che l'illuminazione interiore è molto interessante. Io credo che noi abbiamo troppo di luce all'interno del nostro edilizio. È molto più importante controllare la qualità e la qualità e la distribuzione di questa illuminazione che noi abbiamo. La più parte delle officine che sono in faccia al mare sono un problema di come si chiama questo deslumbramento, no? Poi deslumbramento, come è? Abbagliamento può essere. Poi voi vedete le mare a lungo e a 100.000 lux e voi sguardate la vostra tavola e voi vedete niente. Questo è il problema, una enorme quantità di luce. No? Noi abbiamo fatto questo primo cambio, noi abbiamo fatto anche una proporzione, sì, era più interessante l'isolamento termico, molto isolamento termico, era più interessante lavorare con un sistema di molta massività. Curiosamente era molto vicino a vedere 15, 20, 20, 20 centimetri di isolamento o avere un muro in cemento importante, lurdo, era curiosamente, la comportazione finalmente non era molto diverso. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo prima un io credo che, no, bueno, questo, bene, vamo dopo lo vedete. Noi abbiamo fatto un muro in cemento bianco e dopo un isolamento all'interno. E anche noi abbiamo travagliato con l'idea della ventilazione naturale, se no non possiamo aprire la finestra, ma con un sistema artificiale di ventilazione naturale, con un sistema di mettere tutta la climatizzazione in una coperta e travagliare esclusivamente, lavorare esclusivamente con il sistema aire-aire. Questo faccia possibile una utilizzazione totale del free cooling, questa idea che è molto interessante. Queste due grafiche sono interessanti. La prima se l'edificio, prima se la domanda, se la domanda, voi comprendete la domanda, no? L'idea? La domanda energetica, e la seconda se la consumazione. Allora, la prima era esclusivamente l'architettura e la seconda se l'incorporazione dei sistemi tecnici, di macchine. La prima, voi vedete, la prima se la blu, se la consumazione di un edificio a muro cortina, la stessa situazione che il nostro, a muro cortina di buona qualità. La verde in basso, se il nostro edificio con un sistema di ventilazione naturale. Questa grafica, dopo revengo alla prima, questa grafica alta dona questa idea. La superiore è l'edificio naturale senza ventilazione. Se noi utilizziamo il sistema di free cooling, il sistema di recuperazione del calore, noi abbiamo una linea gialla, no? Gialla. Questo è un 35% di riduzione di consumazione. E se facciamo la comparazione entro l'edificio di referenza e il nostro, il 50%. Noi abbiamo ridotto il 50% della consumazione solo con l'architettura. Dopo mettiamo l'installazione, che è la grafica più bassa. Passare direttamente alle cifre. Abbiamo analizzato anche tutta la questione dell'illuminazione all'interno. Abbiamo fatto un studio con una compagnia dell'Austria. Austriaca, scusi. E noi abbiamo fatto questo calcolo con quattro possibilità. La possibilità che noi vogliamo fare è un po' diversa dall'abituale, è mettere il vetro all'esterno e la protezione solare all'interno. Noi abbiamo fatto il calcolo con questa idea nostra e le altre possibilità, normalmente mettere la protezione solare all'esterno. Qual è il problema della possibilità? Protezione solare all'esterno, e che questo è in faccia alla mare, il mare fa vento, quando è a vento il sole è splendido, no? In questo momento di vento, che ogni pomeriggio a vento le persiane montano e il sole entra all'edificio, questo non funziona correttamente. E noi possiamo lavorare anche con la trasportazione di questa energia all'interno. E avete pensato, se noi mettiamo un vetro che filtra tutte le radiazioni che non sono visibili, la radiazione infrarossa, la radiazione ultraviolata, noi abbiamo solamente luce. Sicuro, la luce è allo stesso tempo energia, ma questa luce, anche le fluorescenti, è energia, è luce, se è radiazione visibile ha energia. E se ogni vetro lascia passare solamente la luce, questa luce è gratuita. Allora, se noi trasportiamo questa luce all'interno dell'edificio, tutta questa luce è luce artificiale che non abbiamo bisogno. E l'energia è esattamente la stessa che l'energia della radiazione della luce che noi apriamo all'interno se questa luce non entrava, no? Allora noi abbiamo fatto questo calcolo e veramente è come quello. E il sistema di trasporto e illuminazione, abbiamo fatto questa immagine interessante, questa è la situazione il giorno più interessante dell'anno, 21 di dicembre, 14 ore, ma senza sole, tutte le facciate hanno la stessa proporzione solare, non rientrano nell'energia diretta della radiazione solare. Questa è la situazione con il sistema di trasportazione solare all'esterno, ma questa è la situazione, calcolo, con la persiana pulita, non con la persiana salita, non pulita. E questa è la situazione con la persiana all'interno. Questa persiana all'interno è possibile, l'interno è un'area assolutamente pulito, perché è un laboratorio. Allora questa persiana non prende la polvo, no? Non prende scusa, mi sono faticato. Questa è la situazione, questa è la persiana, il sistema di trasportazione della luce, e questo è il funzionamento. Questa persiana è una piccola perforazione per vedere l'esterno, come una piccola persiana possiamo vedere le mari, ma non ha la sensazione di vedere tu le sol all'interno. Questo è un movimento più grande, questo sistema automatico basta tutto per la posizione del sole, allo stesso tempo tutte le lampe, l'illuminazione interna descendono. Questo è un sistema che lavora assolutamente autonomo e vinculato al sistema energetico dell'edificio. In la coperta ne abbiamo fatto finalmente tutto il sistema di installazione, la coperta, come è necessario trasportare l'aire. Questo sistema che ci diceva che permette di fare free cooling, e questo fa anche una sombra, un umbracolo sopra la coperta, dopo poi ha il sistema di captazione termica, solare, eccetera. e a questo io voglio passare. Noi abbiamo fatto anche del sistema di evaluazione della salute di questo edificio, con sistema, con evaluazione della radiazione naturale, eccetera. E finalmente ecologia, quale economia, quali le cifre finali di questo progetto? 3,5 milioni, 3,3 milioni kilowatt-ora l'edificio originale di demanda, contro 1,5 milioni del nostro edificio, e 1,150,000 di consumazione prevista contro 145,000. Queste cifre non sono ancora definitive, queste cifre sono di calcolo, ma noi abbiamo visto che la riduzione della consumazione è molto importante. Potesse essere non 140,000, se 250, tutta fasone, è assolutamente molto diversa. Interessante è vedere il ritorno economico. Questo non è solo il ritorno economico per la consumazione, ma anche per la manutenzione. Modificare la posizione, per esempio, non avere dei francoise all'interno vuol dire non avere de filtro di aria all'interno, avere tutte le filtre nella coperta, travagliare, fare tutta la mantenenza dell'installazione in giorno, non la notte, con personale che non è necessario, che rientrano in un laboratorio. Questo è molto più economico. La facciata, la pulizia della facciata, la pulizia del vetro è molto più piccola, perché è molto più, un 40% del vetro, allora le prezzi sono la metà che la pulizia del vetro globale. Questo in 20 anni, abbiamo fatto il calcolo? No, in 30 anni, questa rendibilità annuale del 20%. E un milione, qualche cosa di più che 1 milione di euro, 1,200,000 euro di inversione di più, in una costruzione, ma 8,5 milioni del ritorno. E anche questo è un po' strano, no? In Catalogna, a Barcellona, la consumazione di un edificio come quello, un edificio di officine, e più o meno 10-20% di demanda di calore contro 80% di demanda di freddo. Che cosa ha qui? La quantità di energia per la calefazione è esattamente la stessa quantità che per facere il freddo. Perché? Perché noi abbiamo ridotto un 88-86% la energia per fare il freddo, e la calore non abbiamo fatto, questa cosa non è importante, ma in questo momento comincia a essere importante. E anche per esempio la trasportazione dell'aria, noi gastiamo la stessa quantità di energia per trasportare l'aria o per trasportare l'acqua che per fare il freddo, no? Allora, come queste cifre cominciano a cambiare la forma di capire l'edificio. E queste sono un po' le quantità di energia o di emissione che noi abbiamo fatto. Ha fatto, ha concluso. Grazie. Io fremevo perché ho visto l'orologio, allora mi preoccupavo. No, mi preoccupavo soprattutto di poter lasciare a voi il tempo di porre qualche domanda prima di dormire. No? Prima di andare a letto, così andate a letto con la favola della buonanotte. Non so se ci sono dal pubblico interventi, curiosità. La relazione è stata molto precisa, molto scientifica, e ha dimostrato, insomma, fino all'ultima goccia dove si poteva ottenere un risparmio, dove si poteva intervenire. Non so se magari la persona che prima era interessata all'edificio della Telefonica ha acquisiti anche per l'architetto Sabatè. No. È tutto chiaro. Questo che è interessante di queste cifre è che la importanza dell'architettura, questo 50% iniziale di riduzione, e perché è molto importante? È solamente un tema. Se voi prendete questo primo edificio con 3 milioni di kilowatt e il nostro con 1,5 milioni di kilowatt, questo vuol dire che la macchina che io compro per facere l'energia è esattamente la metà che la macchina originale. E con la stessa quantità di denaro io posso comprare una macchina molto più interessante. E questa è una questione molto importante, perché l'architetto è chi fa possibile, chi rende possibile la migliore di tutto il sistema, perché è il primo che arriva. Se voi mettete una macchina molto buona nell'edificio primo, questa macchina è molto cara, noi possiamo accettare una macchina tan cara, perché la produzione è molto più importante. Certo. A proposito di macchine di produzione, prima era stato detto nell'industria prefabbricati spagnola che si sta avvicinando a degli standard del nord europei, quella italiana come? Approfitto della sua presenza. No, quella dell'italiana non posso fare nomi ovviamente, ma ci sono delle ditte soprattutto nella nostra provincia che sono assolutamente al massimi livelli a livello mondiale, poche ma ce ne sono alcune veramente che lavorano molto molto bene, sì, e forse questo del sistema costruttivo mi, se non ci sono altri al pubblico prendo io faccio una domanda, perché questo del sistema costruttivo, l'impressione che il tema della sostenibilità e dell'energia metta quasi in concorrenza sistemi costruttivi, quindi la costruzione a secco contro la costruzione tradizionale, il cemento armato contro il legno, il prefabbricato contro la costruzione in opera. Negli studi Sabatè contro la costruzione. Il tema è contro costruzione convenzionale contro. Sì, la concorrenza si mette in contrapposizione. Non lo so. Dopo l'impressione, laterale, non è l'impressione, contro. L'impressione è questa, cioè che buona parte delle argomentazioni sul sistema, sulla sostenibilità nel mondo delle costruzioni si giochi molto sulla tipologia del sistema costruttivo. Quindi è evidente che c'è una parte di questo che è ovvia, vedo per esempio che negli studi di Sabatè sul progetto Lima diciamo c'era una sorta di critica molto viva sul cemento armato e poi invece la ritroviamo motivata nella realizzazione fatta. Sappiamo che ci sono degli studi dell'ETH di Zurigo e anche di altre università che stanno lavorando su sistemi costruttivi monolitici, massa, calcestruzzo, che risolvono isolamento, struttura, rivestimento. Allora la domanda è quanto di questo legame tra architettura sostenibile ed edilizia industrializzata è legato ad un'immagine di sostenibilità e quanto invece è evidente che non è quantificabile, no? Però forse parzialmente questa ambiguità è stata espressa parlando del tuo progetto della torre di Telefonica, dove alla fine sembra che veramente quello che prevale è comunque sempre l'architettura e la sua forza, la sua capacità di essere espressione di una ricerca anche di linguaggio e di composizione, dove ovviamente va ricondotto al tema della sostenibilità, ma c'è un po' un navigare. Quindi vedo che Felipe mi chiede la parola, quindi lascio la parola a lui. Yo creo que cuando hablamos de industrialización, hablamos sobre todo de arquitectura. Hoy en día, en gran medida, estamos haciendo artesanía sin artesanos. Y sobre todo, la forma que da una edificación que viene del pasado es la forma de una estructura social, de unos artesanos con unos gremios, con unos sistemas de aprendizaje, con unos ligámenes entre las familias al territorio. Cuando nosotros vemos cómo se hace una edificación artesanal, no tiene nada de ese sustrato social que produjo estas formas. De forma que lo que nos estamos haciendo es siendo cautivos de unas formas. La arquitectura está buscando una forma sin vehicular la estructura social que llevaba detrás. Mientras que la arquitectura o la construcción industrializada está prendiendo de algún modo los nuevos artesanos de nuestro tiempo, que son empresas ligadas al territorio, que contratan a las personas, que son capaces de producir de forma eficiente, cuyo resultado formal es vehiculación de esa estructura. Pensemos además que el tipo de edificación en el pasado, ¿no?, que obtiene la forma por acumulación de material, la argamasa, la tierra, yo no digo que sea un tipo de arquitectura menor, pero sí que es previa a la arquitectura hecha en piedra que empieza a formalizar la estereotomía, que empieza a tener en cuenta que cada una de las piezas es una arquitectura en sí misma. Y la forma final no es el objetivo, sino que es el resultado de un ensamblaje. Eso es una concepción intelectualmente superior. Y pienso que en el fondo, cuando hablamos de arquitectura industrializada, no estamos hablando básicamente, o en el fondo no estamos hablando simplemente de una forma más conveniente, o de una forma más económica, o una forma más utilitaria, sino en el fondo, estamos hablando de la forma, de la estructura de nuestro tiempo. Sì, questa idea è interessante. Io ritengo questa idea di che ogni tempo ha una tecnologia, perché la tecnologia è l'immagine della struttura sociale di questo tempo. Ma in questo momento io credo che ha tutte le tecnologie. Per esempio, questa esposizione di architettura in terra, in Africa, la tecnologia, io ritengo questa idea della tecnologia adeguata, la tecnologia. Tutte le tecnologie sono buone, non ha tecnologia, come alcune, no, non è certo, buone tecnologie, tecnologie che non sono buone, ma le tecnologie buone, prefabbricate, artigianali, un'enorme quantità di diverse tecnologie interessanti, buone, ma questo dipende dalla disponibilità, se io ho dei buoni professionali per vedere calcestruzio, per vedere una riabilitazione, molto bene, io posso fare questo. Questa cosa che è interessante che dice Felipe è che probabilmente in questo momento noi non abbiamo in tutte le situazioni di buono professionale, di buono artigiano. Allora è interessante di vedere se questa produzione possa farsi di forma più industrializzata. L'industria non è buona, ma non è né buona né non buona, è una possibilità che noi abbiamo. Questo è interessante, il rapporto entre inversione, entre qualità, entre risultato, no? E allo stesso tempo, la stessa idea, penso, entro i materiali. Non ho un materiale buono, dipende. Io sì, in questo momento, che il cemento armato, in questo momento, ha più di consumazione, molto più di consumazione di energia che il legno, molto più. Questo è assolutamente certo, ma questo posso anche cambiare con la storia, per essere il sistema di produzione del cemento armato, posso migliorare, per questo momento è questa condizione. Ma per vedere un edificio con molta domanda, con molta condizione, il cemento armato è molto buono, non è malo per sé. Per tessere non è necessario utilizzare il cemento armato per fare tutto, per fare una struttura orizzontale di un piano di 5 metri di luci, che questo possa fare un legno perfettamente per una casa. Allora questa idea di tecnologia adeguata è di disponibilità. Se io ho la possibilità di avere differenti tecnologie, io posso utilizzare questa che è meglio dal mio progetto, Io volevo dire una cosa simile a quella di Joan e aggiungere anche, non so se siamo consapevoli di l'enorme pressione economica che certe ditte multinazionali fanno sull'architettura, sulla produzione edilizia, non sull'architettura, sulla produzione edilizia. E questa è una pressione che non è innocente. È una pressione che anche comporta scambiamenti, diciamo, culturali o tipologici. Per esempio, tutta questa, io credo, sono d'accordo con Joan che l'uso del legno è, ma non è un tema di essere d'accordo, è così. Il legno è una riserva di CO2. Ma c'è tutta una industria all'interno della produzione di edilizia in legno che viene di paesi come America, come Canada, che è una pressione commerciale, simplemente commerciale, non è una pressione, diciamo, di uso consapevole, sostenibile, eccetera. Forse possiamo fare case di legno che non sono sostenibili, se tu guardi tutto il processo, no? La produzione, il trasporto, eccetera, no? E dobbiamo essere consapevoli di questa pressione commerciale multinazionale anche. E per esempio tutte, perché è così, tutti gli studi, la maggioranza di studi fatti sulla sostenibilità sono centroeuropei, nordamericani, che hanno una tipologia, una storia tipologica, architettonica diversa da quella di paesi mediterranei, no? E questo è interessante fare, penso, a questo punto, anche per tutta la ricerca che fa Giovanna, di trovare quello punto di accordo fra tradizione, cultura e una situazione attuale che è globale, anche in Africa, no? Come hai detto. Sì. Grazie. Presidente, che dice? Siamo in ritardo? Mi sa di sì, vero? L'orario è tardo. Allora io ringrazio tutti voi che siete stati qua fino a tardi e ringrazio ovviamente i nostri ospiti che sono venuti qua da Barcellona e ringrazio voi per aver invitato me. Grazie, buona serata a tutti. No, ma non è...